La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci qui con l'appuntamento con l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Dopo la puntata speciale di domenica scorsa dalla BIT dedicata a cinema e turismo, torniamo al nostro format, quello proprio sulle novità in sala, sui nuovi film che arrivano sul grande schermo e anche su quelli che possiamo vedere o recuperare in casa grazie alla TV, che per una volta è amica del cinema, e al DVD, al Blu-ray. Insomma, tanti ospiti, tanti film di cui parlare e anche conto alla rovescia che è già cominciato verso la notte degli Oscar. Di tutto questo ci occuperemo in questa puntata della Rosa Purpurea. Cominciamo subito con i nostri titoli di testa. Il pluripremiato milionario Danny Boyle torna sul grande schermo con una storia estrema e adrenalinica. 127 ore racconta la vera vicenda dello scalatore Aaron Ralston, sopravvissuto a un incidente in un canyon dello Utah. Continua la saga di Manuale d'amore, arrivata al terzo capitolo. In primo piano, come sempre, le storie d'amore che nascono nell'età della giovinezza, della maturità e della terza età. Passione in celluloide fra i due big del cast, Robert De Niro e Monica Bellucci. Mancano poche ore all'assegnazione degli Oscar 2011. L'evento cinematografico più atteso dell'anno sarà presentato da James Franco e Anna Hathaway sul palco del Kodak Theater di Los Angeles. John Landis torna sul grande schermo con Ladri di cadaveri, una commedia noir sulla storia di due truffatori che vendono ai medici i cadaveri per le autopsie, improvvisandosi serial killer. Ascoltiamo il regista alla Rosa Purpurea. E allora, questo il menù, cominciamo subito a entrare nel vivo, a entrare in sala potremmo dire, visto e considerato che ci occupiamo del primo film che arriva nei nostri cinema già da questo fine settimana ed è un film che come dire, ha già un suo passato di grande successo e potrebbe trovare anche terreno fertile nel presente di questa tipologia, di questo genere di cinema italiano, ovvero della commedia. Parliamo di Manuale d'amore, giunto al terzo capitolo. Come dicevamo, il passato c'è, il presente pure, gli attori anche, questa volta ci spingiamo fino a Robert De Niro. Sentiamo com'è andata la proiezione alla quale ha assistito la nostra Chiara Pizzimenti. Però, cosa vuol dire però? Roberto, Riccardo Scamarcio, è un avvocato trentenne vicino al matrimonio con Sara, Valeria Solarino. Mandato a Castiglione della Pescaia a gestire una vendita di terreni, incontra Nicole, Laura Chiatti, rimane incastrato dal suo fascino misterioso e per l'ultima volta si sente un ragazzo. Non ci crederei, ma io non ho mai tradito mia moglie. Secondo me l'ideale sarebbe sesso all'improvviso, una volta sola. Mia con le soffia. Sassia! Sì. Bravo, così. Questa è la psichiatra che pubblica. Ma quale psichiatra? Quella sta in cura dalla psichiatra. Cosa accade all'Anchorman TV? Fabio, Carlo Verdone, lo avete appena sentito. Il tradimento di una notte si trasforma in un incubo perché Eliana, Donatella Finocchiaro, è in realtà una ninfomane bipolare, una stalker di cui è difficile liberarsi. Io ti amo. Troppi casini, Adri. Questo cuore indeciso di amare te, io non posso farne nulla. Infine, questa è la dichiarazione d'amore del sessantenne Adrian, Robert De Niro, a Viola, Monica Bellucci. Lui è un professore americano di storia dell'arte che, dopo il divorzio e un'operazione al cuore, vive a Roma. Rimane fulminato dalla figlia del portiere del suo palazzo, Michele Placido. Mia figlia, sì. Altro che direttrice d'atelier, a Parigi faceva la spogliarellista, insomma, la mignotta. Dire sì, dire mai. Non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Tre nuovi capitoli del Manuale sull'amore di Giovanni Veronesi. Arrivato al film numero 3, il regista e sceneggiatore ne annuncia altri due prima di concludere l'esposizione dei momenti del sentimento. Si prosegue però sempre più stancamente. Stavolta tocca all'età del cuore, giovinezza, maturità e oltre, con un tassista cupido poco utile a legare gli episodi. Riderai come se non ti avessi amato mai. Un film in cui a fare colpo è prima di tutto il cast altisonante, ma che è divertente e imprevedibile in un solo episodio. No, non è quello in cui De Niro, professionale e niente più, fa uno spogliarello per la Bellucci, e nemmeno quello di Scamarcio, il più banale. È Carlo Verdone a fare il mattatore, con un personaggio che racconta così. Questo è un uomo praticamente che vive in adorazione di se stesso, probabilmente avrà tradito pochissimo la moglie, perché è innamorato di sé, della sua carriera. Era anche il percorso giusto quello di farlo piano piano crollare. Crolla tutta la sua sovrastruttura un po' finta, perde famiglia, perde dignità, perde tutto. Finisce veramente in una situazione veramente miserabile. Là mi sono trovato per un tempo, recitativo, che mi sono piaciuto. Il pubblico in sala ride e apprezza. Carino, sì, un film carino, senza grandi pretese, però l'ho trovato gradevole, sì. Quale episodio le è piaciuto di più? Forse quello con De Niro, che è più dolce. Sì, Verdone e De Niro, sono stati carini tutti e due. Mi piace De Niro in versione nature, molto, molto naturale, non è doppiato. Beh, quello di Verdone, effettivamente. Tutti e tre comunque, uno parlava d'amore, un altro faceva ridere. Così e così, i primi due episodi forse sì, il terzo grande De Niro, ma insomma la storia è un po' prevedibile, dai. Mi è piaciuto di più il secondo episodio, il primo e il terzo un po' meno. Il secondo era Verdone, era quello più divertente, anche magari fatto meglio, diciamo. Insomma, non proprio entusiasmo alle stelle da parte delle persone che la nostra Chiara Pizzimenti ha sentito fuori da una sala di Bologna. Ciò nonostante, sicuramente Emanuele D'Amore ha tutti gli ingredienti, il cast appunto e un pubblico già consolidato per arrivare probabilmente a insidiare o a superare al primo posto in classifica la prossima settimana Femmine contro Maschi, che invece ha dominato il botteghino lo scorso weekend. Lo scorso weekend ben 4 film sopra il milione di euro nel fine settimana. Femmine contro Maschi, appunto, che si piazza a 9 milioni e 8 globali e sta per entrare nel club dei 10 milioni, nel quale quest'anno, in questa stagione cinematografica, ci sono un sacco di film italiani, come sapete. Secondo posto per Amore e altri rimedi di Edgar Zwick, con Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, che sarà appunto madrina degli Oscar la notte fra domenica e lunedì. Terzo posto per Il Cigno Nero, un altro esordio dello scorso weekend. Quarto per Il Grinta dei fratelli Coen, anche questa era una new entry appunto dello scorso fine settimana. Poi a seguire Sanctum in 3D, qui la produzione in 3D di Cameron non è che abbia portato chissà quali sfaceli, siamo dopo 10 giorni di sfruttamento a 2 milioni e 4, insomma, come abbiamo detto più spesso da queste frequenze, il 3D da solo non basta, ci vuole anche qualcosa da raccontare. Permane al sesto posto in classifica ancora, dopo ormai quasi un mese e mezzo di sfruttamento, Immaturi di Paolo Genovese, che è la vera grande sorpresa di quest'anno per il cinema italiano, a mio modo di vedere, e che ha portato a casa più di 14 milioni di euro di incasso. E poi un film da Oscar, al settimo posto, Il discorso del re, con 4 milioni e 3 globali, che ha ancora una sua attività, una sua vitalità al botteghino. Parliamo di 127 ore qui alla Rosa Purpura. Danny Boyle, uno che ha sempre giocato a stupire, un regista spiazzante, partito con Piccoli omicidi tra amici, passato da Trainspotting a The Beach con una grande disinvoltura, da 28 giorni dopo con atmosfere orrorifiche post-apocalittiche a The Millionaire. Dopo il successo planetario e oscarizzato di quel film, ora il regista inglese torna con un film totalmente diverso, e totalmente diverso soprattutto dal mainstream, insomma dai soldi che si potevano avere per fare un film grande, importante, sul quale cullarsi, il mainstream in cui sarebbe potuto comodamente e sofficemente atterrare dopo appunto The Millionaire. E invece Danny Boyle ci piazza un film diverso anche da tutto quello che vi aveva fatto vedere fino a questo momento. 127 ore è un film a budget abbastanza ridotto, relativamente ridotto per uno come Boyle. Adrenalinico il giusto, con un solo personaggio sperduto in mezzo ai canyon dello Utah per tutto il film. Una storia vera, quella raccontata da Boyle, la storia vera di Aaron Ralston, scalatore e amante degli sport estremi, che durante un trekking negli splendidi territori mozzafiato del Blue John Canyon, di cui non ha informato amici e famiglia, e se ne pentirà, incontra due escursioniste che accompagna in tuffi verticali nelle acque blu cobalto delle grotte sotterranee, magari sognando di flirtare con loro. Vi siete persi? Sono una guida. Credetemi. Secondo la mappa il percorso passa di qua. Ma io conosco una scorciatoia. Dovete solo pensare. Sì. Che andrà tutto bene. Oh mio Dio! Aaron! Aaron! piaceva, eh? Non penso che si ricorderà di noi. Poi, rimasto solo, Aaron smuove una roccia che stava lì magari da più di 1000 anni, precipita in un crepaccio e quel masso dove va a finire? Esattamente a incastrargli e spezzargli il braccio contro la parete del canyon. Fine. Aaron è lì con il necessaire del perfetto campeggiatore, coltellini, corde, videocamera, l'espediente narrativo è infatti quello dell'autoracconto attraverso un video diario, e un telefono che si scarica sempre di più e laggiù, come si suol dire, non prende. Aaron è impossibilitato a muoversi, è impossibilitato a comunicare con il mondo che vola sopra la sua testa come gli aerei che lui vede non ricambiato. È solo e solo resterà per 127 lunghissime ore, centellinando l'acqua rimasta nella sua borraccia e arrivando a sacrificare un pezzo di sé, letteralmente, per salvarsi la vita. Basso budget, dicevamo, ma l'unico protagonista è una star, quel James Franco che condurrà domenica notte la serata degli Oscar proprio con Anne Hathaway, nella doppia veste tra l'altro di candidato alla statuetta come miglior attore proprio per questo film e di presentatore irriverente. La regia di Boyle si manifesta con le armi che gli sono più care, montaggio spinto, grande uso del sonoro, in questo Boyle è uno dei migliori al mondo e fa specie non vederlo fra i nominati questo film proprio per il sonoro, fra le 6 nomination agli Oscar non c'è quella dell'uso del suono. E poi ancora, creazione di una tensione che si scioglie solo in un finale lieto a metà, nel quale fanno capolino le immagini del vero Aaron Ralston, che pur privato di una parte di sé ha continuato a praticare i suoi sport estremi. Ne usciamo rassicurati. E questo era 127 ore di Danny Boyle. Il film arriva nei cinema italiani in quasi 200 sale di tutta Italia, quindi con potenziale anche rispetto al pubblico importante. Certo, appunto, come dicevamo, chi ha visto The Millionaire, ma questo funziona sempre con Danny Boyle, non si aspetti la copia del film precedente, perché lui è uno che sguazza di qua di là, gli piace cambiare la matrice, diciamo, rimane questo grande ritmo narrativo che lui riesce a imprimere alle sue storie. Oh, siamo arrivati alla prima finestra sul DVD game di questa settimana, ancora una volta spostato su un asset tecnologico che è quello del Blu-ray, quindi dell'alta definizione, perché sono tanti film che arrivano, anche film di una certa importanza e di un certo passato, che arrivano in edizione Blu-ray. E il caso del film di oggi, noi cominciamo a sentire la prima clip. Non ti renderesti conto della realtà neppure se te la mettessero nel culo. Perché mai dovrei pensare alla realtà in un letamaio come questo? Perché dovrei essere ancora più depresso di quanto sono? Sei peggio di quanto pensavo. E allora, avete sentito, insomma, linguaggi abbastanza incisivi, diciamo così. Se avete già indovinato di che film si tratta, vuol dire che avete intanto un grande orecchio, poi una grande cultura cinematografica. Ma scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Come sempre, vi prego, inserite subito il vostro indirizzo di casa. Non vi veniamo a trovare, non vi chiederemo da bere, però ci serve per agevolare e poi accelerare le pratiche di spedizione del film al più bravo e preparato del sabato e della domenica che indovineranno. Più tardi, però, ci saranno un altro paio di possibilità. E siamo arrivati adesso alla terza delle novità in sala in questo fine settimana. Abbiamo voluto scegliere un film di un regista che ci è molto molto caro, perché è un regista che ci ha regalato un film come Animal House, un altro come The Blues Brothers, insomma, penso che basti per, come dire, per farcelo piacere, per farcelo amare. Poi magari il cinema si è un po' dimenticato di lui, ma semplicemente è il cinema che è cambiato tanto e questo tipo di autori hanno un po' forse perso la loro grande capacità di aggredire il capitale di Hollywood e di farsi dare soldi per fare film, ovviamente senza piagnistei, insomma le cose vanno così, ma è il caso che è capitato per esempio a un regista come Joe Dante. In questo caso stiamo parlando di John Landis, che torna, e questa è la grande notizia, torna con un film che si chiama Ladri di Cadaveri, una commedia nera che esce in questo fine settimana nelle sale italiane. Noi cominciamo a entrare un po' nel clima del film ascoltando questa clip. Vi do 3 sterline. Ce ne aspettavamo 6. 5 sterline per ogni altro sfortunato che mi porterete. Agli affari. Ora sto cercando di mettere in scena la mia prima opera. Devo solo mettere insieme un gruppo di investitori. Ho bisogno di più soldi. E in fretta. Siamo usciti di senno. No, Willy. Siamo entrati in affari. Insomma, questi rubano i cadaveri perché poi li danno, insomma, a chi ne fa un utilizzo professionale, possiamo dire. Ma appunto, commedia black sicuramente per John Landis. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, mi hai fatto un regalo a parlare di John Landis. Beh, ci vuole, quando ci vuole, assolutamente. Assolutamente. Ma insomma, merita questo Ladri di cadaveri? Guarda, devo essere sincero, io sono andato al cinema, all'anteprima del Festival di Roma, con tanta paura, perché proprio come quando, insomma, rischi di essere deluso dalle persone che ami. E invece mi sono ritrovato di fronte un Landis che è più che rinato, secondo me, perché è anche cambiato, perché a 60 anni ha trovato un cinema che si affida meno al caos esplosivo del suo talento, anche a una certa approssimazione derivante dal fatto che c'era tutta una serie di eccessi, e ha trovato uno stile anche raffinato, colto, una ricostruzione di un Edimburgo del 1800 davvero straordinaria. Però il marchio di Landis c'è tutto, parlavi di una commedia nera e lo è, parlavi c'è una quell'ironica perfidia che c'è sempre stata nell'occhio di Landis, e allo stesso tempo un amore per i propri personaggi, come in altre occasioni, come in Una poltrona per due, come in The Blues Brothers. Costruisce una coppia attoriale e comica straordinaria, quella tra Andy Serkis e Simon Pegg. C'è Isla Fisher, che è forse uno dei più bei personaggi femminili della sua cinematografia. C'è un film che ci dice che se chiunque, in questo caso sono stati gli inglesi, daranno dei soldi per far fare ancora cinema Landis, probabilmente riavremo fra 3-4 anni altri due o tre film davvero gustosi. È un film che a mio parere non va perduto, perché è un piccolo gioiello. In qualche momento, giusto in qualche momento, si trova un po' di ruggine, ma si capisce che il leone, insomma, è tornato a ruggire. Certo Boris, che fare un film come The Blues Brothers è una cosa che ti porta, certo, tutta la notorietà del mondo, diventi un mito, però è anche poi una camicia di forza in un certo senso, perché è chiaro che come si fa, cioè quell'attore lì non esiste più, quel cinema non esiste più, e tu sei per tutta la vita, come dire, onorato dalla gente che ti incontra per quel film, ed è anche difficile poi muoversi in altri ambiti. Beh sì, lui ci provò alla fine con l'ultimo grande film che ha fatto, ci provò con Una poltrona per due, che è stato il film più vicino al cinema che sarebbe venuto. Però lì, secondo me, si vedeva in pieno quanto Landis fosse invece un unicum di quel tempo, e quello stupisce di questo nuovo Landis. È un Landis che non ha rinunciato ad essere se stesso, che è cambiato, ma non è cambiato nel senso del mercato, come probabilmente avrebbero voluto i produttori che non gli hanno fatto fare film di fatto per 20 anni, se non lo stupro del sequel di Blues Brothers, per cui lui ce l'ha ancora con i produttori che a Hollywood hanno voluto il Director's Cut. Però sono d'accordo con te, insomma, quelle sono anche le maledizioni. Tra l'altro lui, se vogliamo, aveva la maledizione di essere una sorta di gallina dalle uova d'oro, perché il trittico Animal House, Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra sono stati così straordinari, così unici nei loro generi, che poi era difficile essere all'altezza di se stessi, certo, indipendentemente certo dal mercato. Ascoltiamo allora John Landis in questo esilarante momento della conferenza stampa dell'ultimo incontro romano, raccontare quali sono le difficoltà di un regista nell'incontrare i giusti gusti del pubblico. Sentiamo. What the public goes to see, it's a difficult thing. All filmmakers are schizophrenic. È difficile capire come il pubblico scelga i film da vedere, anche perché tutti i registi sono schizofrenici. Per chi fai i film? Fai i film per la critica? Fai i film per il pubblico? La verità è che tu fai i film perché ti danno i soldi per farli, in modo che tu faccia fare loro quattrini. Come nella questione della commedia italiana, c'è qualcosa di molto buffo e divertente che succede nel business del cinema, ovunque. Se realizzi un film che ha successo, sei un genio. Questo ti conferisce potere, ti dà la possibilità di fare un altro film, magari non così conservatore, un film diverso. Io sono stato fortunato. Ho fatto film tipo Animal House, The Blues Brothers, Un lupo mannaro americano a Londra, che ho scritto nel 1969, ma sono riuscito a realizzarlo solo nell'81, fino a che non sono riuscito a raccogliere i soldi. Io ho fatto dei film strani, particolari, E ho fatto successo con questi. Ma nel momento in cui fai un film che non ha successo, si raffreddano tutti nei tuoi confronti e l'opportunità non te la danno più. Il successo mi ha dato l'opportunità e la forza di realizzare film anche più strani e più diversi. La cosa buffa è che quando qualcosa di radicale, qualcosa di particolare, qualcosa che può essere definito d'autore, qualcosa di diverso rispetto agli altri ha successo, immediatamente diventa mainstream. E rispetto invece a quanto conti il passare degli anni per un regista, Landis si è espresso così. Il grande regista John Huston diceva che i registi cinematografici, le prostitute e gli edifici diventano rispettabili con il passare dell'età. Ed è verissimo. Io ho appena compiuto 60 anni e ho potuto riscontrare in prima persona che John Huston aveva ragione. La gente considerava cacca tutti i film che ho fatto, ma adesso sono considerati grandi classici. Quindi l'unico modo per fare un grande film è il tempo. Terza parte della Rosa Purpurea, ci sono stati i César, sono stati assegnati i César, gli Oscar francesi, ha vinto Uomini di Dio, pensate un po', film bello, insomma, tosto, di quelli molto rigorosi, è uscito anche in Italia in questa stagione cinematografica, e Roman Polanski è stato premiato col César per la miglior regia. Parliamo di premi perché siamo arrivati in prossimità degli Oscar, nella notte italiana fra domenica e lunedì, diciamo più o meno dopo la mezzanotte di domenica e fino alle 6 del mattino di lunedì, insomma, si consumerà il momento più atteso dell'industria cinematografica mondiale, quello appunto dell'assegnazione degli Oscar. E allora noi vogliamo un po' rinfrescare la memoria e fare un modestissimo Toto Oscar fra me e Boris Sollazzo, così per dire la nostra, molto rapidamente, e cercare intanto di inquadrare la situazione. Poi chiaramente da lunedì in poi sarete inondati su questa emittente e ovunque dei risultati della Notte delle Stelle. Boris, allora ci sei? Sei pronto? Assolutamente sì, ho messo anche le cuffie. Bravo, allora stai lì perché hai pochi secondi per rispondere. Cominciamo con il miglior film. Anche quest'anno è una innovazione recente, sono 10 le nomination che riguardano il miglior film, solo questa categoria. E sono Inception, Winter's Bone, Toy Story 3, Black Swan, Cigno Nero, The Social Network, Il Grinta, Il Discorso del Re, I Ragazzi Stanno Bene, The Fighter, che sta per arrivare anche nei nostri cinema, e appunto 127 ore. Prima di chiedere cosa ne pensa Bori, vi svelo attraverso questa clip cosa ne penso io. Chi sono le persone? Proiezioni del mio subconscio. Del tuo? Siamo nel tuo sogno, tu costruisci questo mondo. Io sono il soggetto, è la mia mente che lo popola. Puoi letteralmente parlare al mio subconscio, è uno dei modi in cui estraiamo dal soggetto le informazioni. E come altro lo fate? Creando qualcosa di sicuro, come il cavo di una banca o una prigione. La mente li riempie automaticamente con le informazioni che vuole proteggere. Hai capito? Quindi tu entri e le rubi. Insomma, avrei capito, Boris, per me Inception è il più bel film uscito quest'anno. Per te? Tu pensa che per una volta non sono d'accordo, perché invece uno sarei molto deluso se vincesse Inception, mentre devo dire che The Social Network è il mio preferito, ma sarei molto felice anche se vincessero Il Discorso del Re o Black Swan. Però Il Discorso del Re, diciamo, ha buone possibilità sull'attore, Black Swan sull'attrice. Inception io lo motivo con questo: erano anni che non mi capitava, tra l'altro un film piuttosto lungo, di voler andare a vedere uno stesso film due volte nel giro di pochi giorni, e quindi vuol dire che evidentemente qualcosa è successo. Altra categoria, appunto l'hai citata, la migliore regia: Black Swan, Cigno Nero, Darren Aronofsky, The Fighter, che purtroppo non abbiamo ancora visto qui in Italia, almeno nelle sale, David Russell, Il Discorso del Re, Tom Hooper, The Social Network, David Fincher, e Il Grinta, i fratelli Coen. Sentiamo quale clip ho tirato fuori. In questi 4 anni ti ho vista sempre cercare come un ossessa la perfezione in ogni singolo passo, ma mai ti ho vista lasciarti andare alle emozioni. Mai. Tutta questa disciplina per cosa? Voglio essere perfetta. La perfezione non è solo un problema di controllo. Cigno Nero perché secondo me è un film sempre in bilico fra il trash, cioè l'irreale, il dire ma va là, e invece il film magico. Però insomma Aronofsky ci sa stare sopra questo crinale e non è assolutamente un mestiere facile. Assolutamente d'accordo, anzi qui sono proprio sintetico, sono d'accordissimo anche con la tua motivazione, insomma Aronofsky è sicuramente il miglior regista di questo lotto. Allora 1-1 D'Assisti sollazzo. Andiamo avanti con un'altra categoria, che è quella del miglior attore. Qui sembra che i giochi siano praticamente fatti. Miglior attore protagonista, si parla di Jesse Eisenberg per The Social Network, di James Franco per 127 ore, di Jeff Bridges, che ha vinto già l'anno scorso, per Il Grinta, di Javier Bardem per Beautiful, ma il candidato numero uno è Colin Firth per Il discorso del re. Sentiamo invece qual è, secondo me, così, tra il pronostico e il gusto personale, la clip che ho scelto. Chiedo scusa, dottore, e lo scopo di tutto ciò? È l'approccio classico, accurato Demostene. È stato nell'antica Grecia. Ha più funzionato? Ora, se foste così gentile da leggere una dovizia di parole... Una dovizia di parole... Lottate contro le biglie, altezza reale. Scandite! Senti, chiaramente la clip del discorso del re, quindi di Colin Firth, è, come dire, penalizzante, perché questo è un film che bisognerebbe assolutamente sentire in lingua originale per capire che cosa ha combinato Colin Firth in questo film. Vittoria già data, secondo te, o ci può essere qualche sorpresa? Secondo me vittoria già data, rischia di essere l'unico Oscar italiano, visto che Firth ormai vive in Italia, però devo dire che è straordinario, straordinario anche perché c'è un grandissimo Geoffrey Rush vicino a lui, che forse lo merita addirittura più di lui, però sicuramente scontata e probabilmente anche giusta, anche se Eisenberg pure ha fatto qualcosa di clamoroso in The Social Network. Assolutamente, infatti l'outsider in questo senso è proprio Jesse Eisenberg. Invece fra le attrici non ho scelte perché non ho ben le idee chiare. Per così, forse fatto generazionale, mi piacerebbe venisse premiata Annette Bening, che è stata una, come dire, una star di una ventina d'anni fa, che a noi altri giovani, insomma, ci piaceva tanto. Però c'è Nicole Kidman che torna, insomma, a certi livelli con Rabbit Hole, anche se poi non trovo che abbia fatto tutta questa prestazione. Michelle Williams per Blue Valentine, Jennifer Lawrence per Winter's Bone, giovane e già piuttosto brava, e Natalie Portman, ovviamente la favoritissima per Black Swan. Secondo te chi vince? Ma la Portman, potrebbe esserci la sorpresa Lawrence, che pure è bravissima. Le altre mi sembrano diversi gradini sotto, devo dire. Anche la Bening non capisco perché è stata scelta lei e non Julianne Moore nel film. Comunque sì, secondo me Natalie Portman merita di avere l'Oscar, anche perché se non lo vince questa, con questo film, con cui si è slogata una spalla, ha studiato per 6 mesi danza e tutto quanto, non lo vince più. Anche perché le spuntavano i peli di cigno, insomma, sulle ascelle, sulle, come dire, sulle scapole, per cui, cioè, va premiata anche per questo. Allora, ultima delle categorie che abbiamo scelto, non che possiamo farle tutte ovviamente, però è la sceneggiatura, che è un po' sempre l'anima di un film, e fra le sceneggiature non originali noi abbiamo scelto questa clip. Siete un uomo di legge? Esatto. Sono un Texas Ranger. Quella vi renderà un pezzo grosso nel vostro stato. Ma qui dovete fare attenzione che i vostri finimenti texani e la vostra carica non vi rendano ridicolo. E perché avete dato la caccia senza esito a Cheney? Ha ucciso un senatore dello stato di nome Bibbs a Waco, in Texas. La famiglia ha messo una taglia su di lui. Tu hai qualche informazione utile per trovarlo? So che è nel territorio, ma non avete speranza di incassare la ricompensa. E perché questo? Ho chi lo prenderà prima di voi. Ho ingaggiato un vice sceriffo, il più duro che c'è. Bene, allora verrò con te il tuo sceriffo. No, lo sceriffo Cockburn e io siamo a posto. Sarà per un vantaggio reciproco. Il tuo sceriffo sicuramente conosce il territorio, io conosco Cheney. Sai perché ho scelto Il Grinta come sceneggiatore non originale? Perché secondo me fare un film da un libro non è facile. Farlo da un altro film che aveva già trattato quel libro è ancora più difficile. E a mio modo di vedere i fratelli Coen l'hanno fatto molto bene. Però ricordo anche le nomination della non originale, 127 ore, The Social Network, Toy Story 3, Il Grinta e appunto Winter's Bone, Un gelido inverno. Mentre nella sceneggiatura originale abbiamo Another Year di Mike Leigh, The Fighter, poi abbiamo Inception, e qui, beh, certo, anche qui l'idea è abbastanza particolare, I ragazzi stanno bene e The King's Speech. Chi è che ha scritto meglio secondo te il suo film? Guarda, io Inception darei il soggetto, devo dire, perché, anche se non esiste, però quello direi. Sicuramente la miglior sceneggiatura originale metterei il discorso del re. Nella non originale forse Winter's Bone, perché avendo letto il libro c'è davvero, recupera davvero il profumo letterario di quell'America profonda e difficilissima, ed è molto difficile perché è un film scritto fino a un certo punto, ma scritto bene. E allora, queste sono i nostri pronostici sulle categorie più importanti. Le risposte arriveranno nella notte fra domenica e lunedì, dalla notte degli Oscar, e chiaramente sarete informati nella giornata di lunedì qui su Radio 24, sin dal primo mattino, di tutti i risultati. Grazie e un saluto a Boris Sollazzo. E vinca il migliore, un saluto. Vinca il migliore agli Oscar, vinca il migliore anche nel nostro DVD / Blu-ray Game, seconda traccia del film misterioso di oggi. Ti mancheranno i miei film. Già, la sera quando andrò a letto probabilmente penserò a te e ai tuoi pazzi film. E io ogni volta che mangerò un cioccolatino penserò a te. E allora, avete già capito di che film si tratta? La Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere il Blu-ray proprio di questo film, più tardi l'ultima possibilità. E allora, siamo adesso a un'altra area dedicata alle nostre rubriche. Come sempre ci alterniamo di settimana in settimana fra film dispersi con Alberto Brumana e fra novità americane, invece, film che ancora si devono perdere, potremmo dire, e che spesso invece arrivano in tempi brevi nei nostri cinema, brevi o meno brevi, quello dipende. Trailer USA, un'altra rubrica molto amata dal nostro pubblico. Oggi la nostra vetrina sul cinema americano inquadra un film drammatico che è stato visto e lodato al Toronto Film Festival, diretto tra l'altro da una faccia nota del piccolo schermo, cioè David Schwimmer, il Ross di Friends, lo ricorderete. Come vi dicevo, storia drammatica incentrata su una 14enne e su un fenomeno molto particolare, molto ambiguo, che è quello degli incontri online, con Clive Owen tra l'altro nel ruolo del padre. Ma la trama ce la racconta la nostra Michaela Bellisario. Sì, ciao Franco. Come dicevi tu, è una storia di stretta attualità quella che racconta Schwimmer. La protagonista è Annie, una teenager che inizia per scherzo a chattare online e poco a poco si innamora di quello che crede un sedicenne californiano, Charlie, campione di pallavolo apparentemente a scuola. Ecco il passo in cui il padre la sorprende per la prima volta davanti al PC. My friend Charlie from California. He's a junior and plays volleyball for his high school. He's smart and really funny. He's encouraging. He's sweet. And he thinks I'm beautiful. Hi, Charlie. Naturalmente dall'altra parte non c'è affatto Charlie, ma un uomo dell'età di suo padre che le dà un appuntamento. Annie, molto ingenua, va e viene trascinata in un motel dove viene prima stuprata e poi in seguito soggiogata e fotografata. Quando le sue foto appaiono sui tabelloni pubblicitari della città per una marca di intimo, i genitori scoprono la verità. E il dramma si mescola nel dramma con il padre che compra addirittura una pistola perché vuole uccidere l'uomo. In questo passo Annie, scoperta, nega l'evidenza al padre. You were attacked. It wasn't like that. You don't even know him. She is in pain. She needs you. I want this guy out of my house. I want him. My life is ruined. Nothing's ever going to be the same. Questo era Trust, il film esce negli Stati Uniti il 1 aprile. Schwimmer tra l'altro ha detto di aver pensato al film 7 anni fa, quando è entrato in contatto con una fondazione che si occupa proprio di abusi sui minori online, e di aver voluto con questo denunciare la questione. Owen, dal suo punto di vista, ha accettato subito la parte perché padre di due teenager, quindi forse anche un po' preoccupato di questo fenomeno, motivazioni insomma sociali e personali dietro questo film. Ancora non c'è una data di uscita italiana, ovviamente ve la segnaleremo appena possibile. Salutiamo Michele Bellisario. Ciao Franco. C'è un utente che ci ha scritto, un ascoltatore che ci ha scritto dicendo che, cioè esprimendo su Manuale d'amore, che evidentemente ha già visto un giudizio che parafrasa probabilmente un celebre giudizio di Fantozzi sulla corazzata Potemkin, ecco. Così evitiamo di andare nei particolari. Non gli è piaciuto molto. Allora, capolavori del passato. Devo dire un'altra cosa. Il game di oggi è su un DVD e non su un Blu-ray. Scusate se vi ho illuso con l'alta definizione, invece stavolta abbiamo un bel vecchio classico DVD, ormai si dice vecchio anche del DVD, pensate come siamo messi, che però è di un grande film, quindi si vede bene lo stesso. Allora, dicevo, capolavori del passato remoto e recente nelle segnalazioni della redazione di Film TV, come sempre, il settimanale di cinema diretto da Aldo Fittante. Sara Sagrati ci propone oggi due grandi film da vedere, rivedere o registrare dai palinsesti TV in chiaro della prossima settimana. Ciao Sara! Ciao Franco, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, a cui oggi propiniamo due belle segnalazioni in zona Melò. Quindi attenzione, preparate i fazzoletti. Si comincia con giovedì 3 marzo su Rete 4 alle 16:15, un grande classico, Splendore nell'erba di Elia Kazan del 61, film d'esordio per Warren Beatty in compagnia di una splendida Natalie Wood. Loro due sono giovani innamorati, ma le loro famiglie e il sistema sociale ed economico dove vivono li vuole a tutti i costi tenere separato, quindi assolutamente, come si diceva, un grande classico del Melò. Sullo sfondo poi della crisi del 29 le cose ovviamente precipiteranno come da tradizione. Una fotografia stupenda, una grandissima regia, loro due sono belli, innamorati, giovani, meravigliosi. Cosa voler di più da un Melò? Eh già, cosa chiedere di più? Splendore nell'erba di Elia Kazan, giovedì 3 marzo, Rete 4 alle 16:15. Invece un amore omosessuale che schiantò il pubblico e vinse il Leone d'Oro a Venezia. Parliamo di Brokeback Mountain di Ang Lee, seconda segnalazione di Sara Sagrati. E continuiamo con una storia di due amanti divisi dalla storia, dalla società, dagli eventi, che sono Jake Gyllenhaal e Heath Ledger in I segreti di Brokeback Mountain su Rai Movie alle 22:45 venerdì 4 marzo. Classica storia Melò. Lui e lui, in questo caso e non lei, si conoscono in un'ambientazione western ma contemporanea. Scatta una grandissima passione, una volontà di stare insieme, ma la società retrograda in cui vivono li costringe all'ipocrisia di un matrimonio eterosessuale non voluto. Niente cambia sul tema del Melò, i fazzoletti sono tanto usati, lacrime scorrono a fiume. Ovviamente quello che ha reso il film molto famoso è la tematica omosessuale, che è assolutamente ininfluente su quelli che sono i canoni del genere. Una curiosità, la presenza di Anne Hathaway, che a breve sarà la madrina degli Oscar, che nel film è la moglie di Jake Gyllenhaal. Non tutti se la ricordano perché a un certo punto è biondissima, cattivissima e acidissima, e in effetti è una simpatica curiosità. E allora lasciamo riprendere emotivamente la nostra Sara Sagrati, che evidentemente è ancora scossa dalla visione di Brokeback Mountain, venerdì 4 marzo, Rai Movie, ore 22:45. Ciao Sara! Bene Franco, vado a strizzare i fazzoletti e ci risentiamo la prossima volta, magari con argomenti più allegri, chissà. Ciao, a presto! E allora, terza traccia adesso del DVD, stavolta lo dico giusto, il DVD game di questa settimana. Non cedere davanti a nessuno, neppure davanti al potere. No, la cosa più importante, ciò che realmente caratterizza un uomo è in qualche modo non umiliare nessuno. E non permettere che quelli che ti stanno intorno si sentano degradati. È un capolavoro, è un capolavoro di un cinema che sentite anche essere abbastanza passato nel tempo. La Rosa Purpura, @radio24.it per indovinare di che film si tratta e vincere proprio questo DVD, ovviamente come sempre per chi indovina per primo il sabato e la domenica. Tra l'altro rispondo anche a un ascoltatore che ci aveva scritto in settimana, dice: ma io ho già vinto una volta, posso ripartecipare? Certamente, la concorrenza è alta, molto agguerrita, però non, nulla ve lo vieta. E andiamo a sentire invece una traccia di quelle che avevamo seminato sabato scorso. I moderati oggi sono figure sfocate, mediocri, gente senza carisma. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica. Era il Caimano, un grande Nanni Moretti. Avevamo tra l'altro raccontato settimana scorsa, insomma, di un'ambientazione e di una tematica che poi sono diventate di alta attualità, e il Caimano è il DVD con cui abbiamo voluto giocare sabato scorso. I più rapidi a indovinare sono stati Michele Pinto di Senigallia e Massimo Provera di Milano, che riceveranno a casa il DVD di questo film, il cui racconto, la cui recensione lasciamo al nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Il film di Moretti del 2006 per ora è disponibile solo su DVD, comunque è di ottima qualità, c'è una traccia Dolby Digital multicanale che ogni tanto fa sentire più di un effetto. Attenzione perché esiste una versione singolo disco che ha solo un trailer e galleria foto, ma c'è un'edizione speciale 2 DVD che contiene un lungo documentario di Moretti sulla lavorazione del film. E adesso passiamo a qualcosa di più recente, grandi ambientazioni da vera e propria rapina di alto rango in The Town. Ascoltiamo la clip. Dove sono? Che cosa fanno in questo momento? Hanno i soldi, ora devono pulirli. Casinò, sale corse. Se acquistano partite di droga, la devono smerciare. Vorranno festeggiare, giusto? Polizia, antidroga, voglio soffiate, nomi, testimoni, qualunque cosa. Bussiamo a tutte le porte. Vediamo chi ci dà una mano. Ci sono domande? No? Bene, andiamo. In un quartiere popolare di Boston vive Doug McRae, rapinatore di banche, cui è rimasto solo l'anziano padre che sta scontando l'ergastolo. L'amore per Claire, direttore di una banca appena svaligiata dalla banda di Doug, spingerà il giovane a cambiare vita, ma il prezzo per uscirne sarà altissimo. Ben Affleck, regista, ma anche interprete principale di un noir metropolitano di spessore, ambientato nella sua città natale. L'edizione un video di Warner, sia DVD che Blu-ray, sono entrambi notevoli, specie quella in alta definizione, che a mio avviso restituisce appieno la cinematografia del film. Per entrambe, tra l'altro, è presente la sola traccia Dolby Digital multicanale. Su Blu-ray segnalo la versione rimontata in aggiunta rispetto a quella cinematografica, con 25 minuti inediti, però è solo in inglese, e c'è un interessante commento del regista in entrambe le versioni, ma non è sottotitolato. E noi invece ci spostiamo al cinema italiano, quello dei bei tempi, degli anni 60. Marco Ferreri è stato un grande cantore dei rapporti fra uomini e donne, dei rapporti di coppia. Fu così anche per Marcia Nuziale. Angelo, angelo mio, vieni qui dal tuo maritino, vieni qui. Angelo? Ma che matto che sei, perché ti sei messa la mia cuffietta? Perché mi piace la tua Michele, cuffietta. Guarda, sul letto con le calze sporche, ma sai che queste cose non le posso soffrire. Oh dai, sempre badare alle apparenze, su. Apparenze, apparenze. Vieni qua, dai, vieni qui. Un momento. Ti desidero, ti voglio. Momento, sei ti buono. Voglio, ti desidero, dai, ti desidero, ti voglio, ti voglio, ti desidero, ti desidero, ti voglio. Ma adesso non ho neanche più sonno. Lasciami il mio posto. Il regista Marco Ferreri gira nel 1965 un film in 4 episodi, una sorta di affresco al vetriolo sulla crisi del matrimonio come istituzione nella società italiana di allora. All'interno di ogni racconto, come abbiamo sentito la voce, sicuramente qualcuno l'avrà riconosciuta, troviamo con ruoli diversi un istrionico Ugo Tognazzi. Nonostante l'età della pellicola in bianco e nero, con minimi problemi fisici, il DVD di Videa offre una qualità sopra le aspettative, l'audio monofonico è accettabile e non ci sono extra. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. A presto, un saluto. E appuntamento la prossima settimana anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Finisce qui la puntata della Rosa Purpurea. Se dovrete affrontare la notte degli Oscar, fatelo con vivande abbondanti ed energetiche, perché ci sarà da stare in piedi fino alle 6 del mattino. Noi ve ne renderemo conto la prossima settimana, come sempre il sabato alle 18 e la domenica in replica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.